Sono stati liberati il 2 di settembre il piccolo team di Greenpeace che in Argentina era stato arrestato mentre fotografava deforestazione per fare spazio alla soia. Il team, che comprende tra l'altro il direttore dell'associazione e, cosa molto più grave, l'avvocato dell'associazione, quindi il gruppo è stato arrestato ed è stato messo in condizione di non avere difesa legale, stavano filmando appunto l'avanzata dei bulldozer, è il cosiddetto gruppo dei Jaguars, dei giaguari, che stanno combattendo contro l'avanzata delle piantagioni di soia transgenica nelle aree forestali, nelle importanti aree forestali dell'Argentina. Si tratta di foreste importantissime, la foresta di Yungas e la foresta del Chaco Grande, che sono un po' insieme rappresentano la più grande area forestale dell'America Latina dopo l'Amazzonia. Sono foreste importanti anche con in quanto danno rappresentano l'habitat per specie in via di estinzione, come molto rare, come il giaguaro, per esempio, che è un po' l'icona dell'Amazzonia. Queste foreste vengono rase al suolo per le grandi piantagioni di soia transgenica. Questa conversione, che un po' ha scandito tutto il percorso un po' anche tragico della vicenda dell'Argentina degli ultimi anni, e che ha molto a che vedere anche col processo di paperizzazione di fame di larghi strati di popolazione in Argentina, paradosso, perché mentre appunto questo paese diventa un grande produttore di mangimi per il bestiame europeo e asiatico, contemporaneamente la gente che lo abita si trova in condizioni appunto di sempre più precarie dal punto di vista alimentare. Ma per quanto riguarda queste aree forestali la situazione è ancora più grave, infatti vi è anche un fenomeno proprio diretto di espulsione di comunità locali, gente che abita in queste foreste, ai margini di queste foreste, coltivando piccoli pezzetti di terra da più generazioni, ma senza avere mai ottenuto un permesso legale, oggi si trova all'improvviso ad essere estranea, ad essere cacciata via, in quanto queste terre sono state date dal demanio ai grandi baroni della soia. Soprattutto in queste aree più periferiche i grandi baroni controllano un po' tutto, ci sono relazioni dirette, amicali o parentali, con la burocrazia, con il governatore, con lo stesso giudice che ha chiesto e confermato e prolungato la detenzione degli attivisti per più giorni, cosa che diciamo rasenta un po' i limiti della legalità, con la scusa formale di aver oltrepassato zone date già in concessione appunto ai baroni della soia. Questo è un po' il motivo della protesta e il motivo per cui appunto Greenpeace sta in tutto il mondo lanciando un po' la denuncia contro questo processo di erosione della foresta, questo non solo in Brasile, in Argentina, ma anche in Brasile, un po' in tutta l'area un po' che circonda le ultime foreste rimaste appunto dall'Amazzonia alle foreste argentine.